Due, nel nido rotto, penetrano gli spini. Nell'agitazione medesima che accompagna i primi colpi della sventura, c'è qualche cosa che sostiene, così come una sofferenza acuta è spesso uno stimolo e produce un eccitamento che dà una forza passeggera. Ma quando poi è cominciata, monotona, la vita nuova, nel tempo in cui il dolore è divenuto stantio e non ha più quella intensità emotiva che reagisce contro la sua punta, allorché i giorni seguono i giorni in una banale uniformità senza speranza e le prove diventano una spaventosa abitudine, allora la disperazione minaccia. Allora si fa sentire la perentoria fame dell'anima e l'occhio e l'orecchio sono tesi verso chissà quale ignoto segreto della nostra vita, capace di dare alla pazienza medesima qualcosa di appagante. Questo tempo di estrema indigenza è raggiunto per Maggie con la tenera età dei 13 anni, alla precocità consueta delle fanciulle, e la aggiungeva quella prematura esperienza del dolore, del conflitto tra gli impulsi intimi e i fatti esterni, che è il retaggio dei temperamenti immaginosi e appassionati. Gli anni trascorsi, da quando piantava i chiodi nel pupazzo di legno fra le travi corrose del solaio, erano stati pieni di una vita così fervida nel triplice mondo della realtà dei libri e del sogno a occhi aperti, che Maggie era stranamente vecchia per la sua età e lo era in tutto, fuorché nella completa mancanza di quella prudenza e di quel dominio su di sé che erano invece le qualità di Tom. E ne facevano un uomo, pur con tutta la sua puerilità intellettuale. E ora la sorte di lei cominciava a tingersi di una calma e desolata monotonia che la spingeva più che mai a ripiegarsi su se stessa. Il babbo era di nuovo in grado di attendere alle proprie occupazioni, i suoi affari erano sistemati ed egli lavorava al suo vecchio posto come agente di Wakem. Tom usciva ogni mattina e rientrava ogni sera, diventando sempre più silenzioso nei brevi momenti che trascorreva in casa. Che ancora? Ogni giorno era uguale a tutti gli altri, e gli interessi di Tom per la vita, rimossi e contrastati in ogni altro campo, stavano concentrandosi sull'unico obiettivo di un'ambiziosa resistenza contro il rovescio di fortuna. Le singolarità del padre e della madre gli erano molto fastidiose, ora che se si mostravano allo scoperto, non più attenuate dalla cornice di una vita facile e prospera, perché Tom aveva degli occhi ben chiari e prosaici, che non si lasciavano annebbiare dalle vaporosità del sentimento o dell'immaginazione. La povera Mrs. Tulliver pareva non dovesse tornare mai più la massaia placida e attiva di un tempo, e come avrebbe potuto? Gli oggetti tra cui il suo spirito era vissuto con tanto compiacimento erano tutti scomparsi. Tutte le piccole speranze e progetti e calcoli, tutte le piacevoli piccole attenzioni prodigate a quei tesori che per un quarto di secolo le avevano reso comprensibile questo mondo, da quando aveva fatto il suo primo acquisto delle mollette da zucchero. Tutto le era stato tolto d'improvviso ed ella era rimasta smarrita in questa vita deserta. Perché fosse dovuto capitare proprio a lei, quello che non era successo a nessun'altra donna rimaneva una domanda inesplicabile, attraverso cui ella esprimeva il suo confronto, perpetuamente rimasticato tra il passato e il presente. Faceva pena di vedere quella grossa donna bionda e ben fatta diventare sempre più magra e consunta in una continua agitazione fisica e morale che la faceva aggirarsi per la casa vuota dopo aver terminato i propri lavori. Finché Maggie, inquieta sul suo conto, veniva a cercarla e la riconduceva da basso, dicendole quanto si inquietava Tom che la si rovinasse la salute con quel sistema di non volersi mai sedere né riposare. Tuttavia, tra questo disperato abbattimento, sopravviveva un segno toccante della sua umile abnegazione materna che risuscitava in Maggie la tenerezza verso la sua povera mamma, pur fra mezzo a tutta la follia di piccoli disappunti quotidiani che la povertà mentale di lei veniva cagionandole. Ella non avrebbe voluto permettere a Maggie di fare i lavori più faticosi, quelli che più sporcavano le mani, e si irritava moltissimo quando lei tentava di aiutarla nella pulizia dei fornelli e delle stoviglie. «Lascia stare, cara, le tue diventeranno così ruvide», diceva. «Tocca alla tua mamma di fare queste cose, io non posso cucire, ho la vista troppo debole». E ancora spazzolava e ravviava con cura i capelli di Maggie, con i quali si era riconciliata, a dispetto del loro rifiuto di inanellarsi, ormai che si erano fatti così lunghi e folti. Maggie non era la Beniamina e in generale sarebbe stato molto meglio che fosse stata completamente diversa da quel che era. Tuttavia quel cuore di donna, così contrariato nelle sue piccole aspirazioni personali, scorgeva un barlume da venire, riponendo la propria fede nella vita di quella giovinetta, e la madre godeva di rovinarsi le proprie mani per preservare quelle che chiudevano in sé ancora tanta vita. Ma la vista continua dello smarrimento materno, così pieno di rimpianti, era per Maggie meno penosa che quella dell'avvilimento paterno, tetro e chiuso. Per tutto il tempo che gli era rimasto sotto la minaccia della paralisi ed era parso che dovesse per sempre restare in un'infantile condizione di dipendenza, per tutto il tempo in cui aveva avuto solo una parziale coscienza del proprio disastro, Maggie aveva sentito il vivo empito di un pietoso amore, quasi come una ispirazione, come un nuovo potere, che per attaccamento al padre le avrebbe resa agevole anche la vita più difficile. Ma ora, a quella condizione di infantile dipendenza, era subentrata una dura e taciturna concentrazione di propositi, in strano contrasto con la veemente espansività e vivacità di spirito di un tempo. E questo stato si prolungava di giorno in giorno e di settimana in settimana, senza che mai negli occhi spenti brillasse un lampo di vita e di gioia. Cosa crudelmente incomprensibile per l'animo giovanile, questa cupa monotonia delle persone vecchie di mezz'età, le cui vite si sono risolte in delusione e scontento. Sui volti delle quali così strano appare il sorriso, che le tristi rughe intorno alle labbra e sulla fronte sembrano non accorgersene che quello se ne fugge via, in fretta, mancatagli ogni accoglienza. Perché non debbono qualche volta animarsi e allietarsi, pensano i giovani nella loro disinvoltura? Sarebbe così facile se soltanto ne avessero voglia. E queste nubi plumbee, che non si dileguano mai, possono creare delle insopportazioni persino nell'affetto filiale, che quando la pena è più comunicativa sfoga tutto in tenerezza e in pietà. Mr. Tulliver non si indugiava mai fuori di casa, scappava in fretta dal mercato, rifiutava ogni invito a rimanere, come un tempo a chiacchierare negli uffici dove gli affari lo chiamavano, non riusciva a riconciliarsi col proprio destino. Non c'era situazione nella quale il suo orgoglio non si sentisse mortificato e in ogni atteggiamento che si prendesse verso di lui, sia di cortesia che di freddezza, scopriva un'allusione al cambiamento del suo stato. Nemmeno i giorni in cui Wakem veniva a fare un giro a cavallo per le terre e ad informarsi degli affari gli riuscivano così neri come quelle giornate di mercato durante le quali doveva incontrarsi con parecchi creditori che avevano concordato con lui. Risparmiare qualcosa per dare un altro dividendo a questi creditori era lo scopo verso cui tendevano ora tutti i suoi pensieri e tutte le sue forze. E sotto l'influenza di questo stringente desiderio di tutto il suo essere, lui, in certo senso così prodigo, che detestava di subire o di far subire strettezze in casa propria, si era poco a poco trasformato in uno spilorcio oculatissimo a rifiutare perfino il tozzo di pane. Per lui, Mrs. Tulliver non riusciva mai ad economizzare abbastanza nel vitto e nel fuoco, e quanto ai cibi, non voleva mangiare che quelli di qualità più grossolana. Tom, quantunque oppresso e fortemente indisposto dall'umore burbero del padre e dalla tristezza della casa, pure condivideva appieno i sentimenti paterni circa il pagamento dei creditori. Il povero ragazzo portò a casa la paga del primo trimestre con un delizioso senso di soddisfazione e la consegnò al padre perché la mettesse nel bossolo di latta dove conservava le economie. La vista di quel salvadanaio col piccolo gruzzolo di sovrane pareva la sola cosa che mettesse un debole raggio di piacere, perché subito, fugato dall'idea che ci sarebbe voluto un lungo tempo, forse più lungo della sua vita, avanti che i magri risparmi potessero allontanare l'odioso incubo dei debiti. Un deficit di più che 500 sterline, con gli interessi accumulati, pareva Pareva un pozzo profondo volerlo colmare economizzando su 30 scellini alla settimana, anche se vi fossero aggiunti i probabili risparmi di Tom. Su quest'unico punto c'era completa unanimità di sentire nei quattro esseri profondamente diversi, seduti intorno all'anguente fuoco di sarmenti che dava loro un calore a buon mercato, verso l'ora di andare a coricarsi. Mrs. Tulliver portava nel sangue l'orgogliosa onestà dei Dodson ed era stata allevata con l'idea che defraudare la gente del proprio denaro, altra frase per significare i debiti, era una specie di gogna morale. Sarebbe stata disonestà, secondo lei, il contrariare il marito nel suo desiderio di fare la sola cosa giusta per riscattare il proprio nome. E la covava una confusa, visionaria idea che se i creditori fossero stati tutti pagati, le verrebbero resi i suoi servizi e la sua biancheria, ma aveva il sentimento innato che fino a quando si deve del denaro che non si è in grado di pagare, non ci si può legittimamente ritenere in possesso di nulla. Brontolava un pochino che Mr. Tulliver si ricusasse così perentoriamente di ricevere una restituzione almeno parziale dal marito di sua sorella. Ma a tutte le esigenze di lui in materia di economia domestica si sottometteva, al punto da rifiutarsi le meno costose soddisfazioni del palato. La sua sola ribellione consisteva nel far passare di contrabbando in cucina qualche cosa che rendesse il pranzo di Tom un po' migliore del consueto. Queste così ristrette idee sui debiti, professate da gente antiquata come i Tulliver, potranno forse suscitare un sorriso sul volto di parecchi lettori in questi nostri tempi di ampie vedute commerciali e di larga filosofia, secondo cui tutto va a posto da sé senza alcun disturbo da parte nostra. Il fatto che il mio fornitore sia in perdita per colpa mia deve essere considerato attraverso la serena certezza che qualche altro fornitore fa dei buoni guadagni con altri clienti e, dal momento che nel mondo ha da esserci la piaga dei debiti, diamine, sarebbe pure egoismo il non volerli fare noi, invece che i nostri cari concittadini. Io sto narrando la storia di gente molto semplice che non ha mai avuto illuminati dubbi in materia di onestà personale e di onore. Tra tutta questa arcigna malinconia e questa soffocante concentrazione di desideri, Mr. Tulliver serbava verso la sua piccina un sentimento che gli rendeva la presenza di lei necessaria, ancorché non sufficiente a rianimarlo. Ella era ancora il desiderio dei suoi occhi, ma la dolce sorgente dell'amore paterno era ormai, come ogni altra cosa, mescolata di amarezza. Quando alla sera Maggie posava il proprio lavoro, soleva prendere uno sgabello basso e sedersi presso i ginocchi del padre sui quali appoggiava la propria guancia. Quanto avrebbe desiderato che egli le carezzasse il capo o desse un qualche segno di sentirsi consolato dall'idea di avere una figlia che gli voleva bene, ma ormai ella non riceveva più risposta alle sue piccole carezze, né dal babbo né da Tom, i due idoli della sua vita. Tom era stanco ed assente nelle brevi ore che passava in casa e il padre si sentiva amaramente preoccupato dal pensiero che la bambina stava crescendo, stava facendosi donna e come poteva riuscire nella vita. Aveva poche probabilità di sposarsi, decaduti come erano essi nel mondo, ed egli rifuggiva dal pensiero di un matrimonio povero come quello di zia Gritti. L'avrebbe portato alla tomba il vedere la piccola logorata dai bambini e dalle fatiche. Come sua sorella. Quando gli spiriti incolti, confinati nell'ambito di una ristretta esperienza personale, si trovano sotto il peso di continue disgrazie, la loro vita interna è esposta a diventare un perpetuo giro a tondo di pensieri tristi e amari. Le stesse parole, gli stessi episodi vengono di continuo rimuginati, lo stesso stato d'animo sempre li accompagna. La fine dell'anno li ritrova tali e quali erano al principio, quasi fossero macchine predisposte per una serie di movimenti in perpetuo ricorso. La monotonia delle giornate era interrotta da poche visite. Gli zii e le zie oramai non facevano che delle brevi apparizioni, naturalmente non rimanevano a pranzo. E l'imbarazzo cagionato dal selvaggio silenzio di Mr. Tulliver, che pareva vieppiù incavare la risonanza della camera vuota e senza tappeti allorché le zie stavano parlando, accresceva in ogni senso la sgradevolezza di queste visite familiari e tendeva a diradarle. Quanto alle altre conoscenze, c'è un'aria gelida intorno a coloro che sono decaduti, e la gente è felice di tenersene lontana, come da una camera fredda. 3. Una voce del passato. Un pomeriggio, quando gli ipocàstani cominciavano a fiorire, Maggie aveva portato la sua seggiola fuori della porta d'entrata e si era seduta lì con un libro sui ginocchi. I suoi occhi neri erravano lontano dal libro, ma non parevano gioire di quel sole che filtrava tra le fronde del gelsomino, pendenti dal portico alla sua destra, e buttava l'ombra delle foglie sulla sua gotta pallida e tonda. Parevano piuttosto cercare i suoi occhi, qualcosa che la luce del sole non svelava. Era stato un giorno più triste del consueto. Dopo una visita di Wakem, il babbo aveva avuto un accesso di collera e per uno sbaglio insignificante aveva picchiato il ragazzo che serviva nel mulino. Già un'altra volta, dopo la malattia, era stato preso da una crisi del genere, durante la quale aveva battuto il suo cavallo, scena che aveva lasciato un durevole terrore nell'animo di Maggie. Le era venuta l'idea che una volta o l'altra gli avrebbe potuto picchiare la mamma se capitava a parlargli in un momento disgraziato con la sua solita maniera dolente. Il più vivo dei suoi timori era che il babbo aggiungesse alla sua presente disgrazia la viltà di commettere qualche azione che lo disonorasse irrimediabilmente. Il logoro libro scolastico di Tom, che la teneva sulle ginocchia, non riusciva a darle alcun sollievo contro l'oppressione di quel terrore, e più e più volte i suoi occhi si erano riempiti di lacrime mentre si aggiravano vagamente, senza scorgere né gli ipocàstani né l'orizzonte lontano, ma soltanto un avvenire di penose scene domestiche. D'improvviso, ella fu riscossa dal rumore della porta che si apriva e da uno stridere di passi sulla ghiaia. Non era Tom, bensì un uomo dal berretto di pelle di foca e dalla blusa di felpa turchina che portava un fagotto sulle spalle ed era seguito dappresso da un terrier di pelo tigrato e di aspetto diffidente. «Oh, Bob, siete voi!» disse Maggie alzandosi con un sorriso di lieta riconoscenza, perché gli atti gentili che ella aveva ricevuti non erano poi così abbondanti da cancellare il ricordo della generosità di Bob. «Sono così lieta di vedervi!» «Grazie, miss», disse Bob, togliendosi il cappello e mostrando un volto lieto, ma subito, per liberarsi da un certo imbarazzo da cui non era immune, abbassò gli occhi sul cane e gli disse con voce disgustata: «Togliti dai piedi, seccatore di uno scozzese!» «Mio fratello non è ancora a casa, Bob», disse Maggie. «Durante il giorno è sempre a St. Oaks». «Ah, bene, miss», disse Bob. «Sarei contento di vedere Mr. Tom, ma non è per questo che sono venuto. Guardate qui». E Bob stava deponendo il suo fagotto davanti alla soglia della porta, insieme con una pila di piccoli libri legati con uno spago. Pareva tuttavia che non fosse questo l'oggetto su cui voleva attirare l'attenzione di Maggie, bensì qualcosa che portava sotto il braccio, avvolto in un fazzoletto rosso. «Guardate qui», ripeté, posando l'involto rosso sopra tutti gli altri e sviluppandolo. «Spero non direte che mi sono presa troppa libertà, miss, ma mi sono capitati fra le mani questi libri e ho pensato che essi potevano forse un poco sostituire quelli che avete perduti, perché vi avevo sentito parlare di illustrazioni e come illustrazioni, guardate un po'». Lo spiegamento del fazzoletto rosso aveva scoperto un decrepito album e 6 o 7 numeri di una galleria di ritratti in ottavo grande. E l'enfatico invito a guardare si riferiva a un ritratto di Giorgio IV in tutta la maestà del suo cranio schiacciato e della sua voluminosa cravatta. «Qui c'è ogni sorta di gentiluomini», continuò Bob, voltando le pagine con una certa eccitazione, «con ogni sorta di nasi e certuni calvi e certi altri con la parrucca, membri del Parlamento, credo. E qui», soggiunse aprendo l'album, «qui avete delle signore. Quali coi capelli ricci, quali coi capelli lisci, alcune che sorridono con la testa inclinata da una parte, e altre che sono lì come se stessero per piangere. Guardate, eccone una seduta per terra fuori della porta, vestita come le signore che ho veduto scendere dalle carrozze ai balli dell'Old Hall. Corpo dei miei occhi, vorrei un po' sapere come si vestono i tipi che fanno la corte a queste donne. Ieri sera mi sono incretinito a guardarle fin quando la campana ha suonato mezzanotte, finché si sono messe a guardarmi dal libro loro, come se capissero che io gli parlavo. Ma santo Dio, non sapevo cosa dirgli. Sono una compagnia più adatta per voi, miss». E l'uomo della bancarella dei libri mi ha detto che come illustrazioni non c'è niente che li valga. Mi ha detto che sono articoli di prima qualità. E voi li avete comperati per me, Bob? Disse Maggie, profondamente commossa da questa candida gentilezza. Quanto, oh, quanto è gentile da parte vostra, ma non avete poi speso troppo? Niente affatto, disse Bob. Li avrei pagati 3 volte tanto se possono un po' sostituire quelli che vi sono stati venduti, miss, perché non ho mai dimenticato la faccia che avevate per il dispiacere che quei libri se ne fossero andati. Mi è rimasta impressa, come fosse un quadro appeso davanti ai miei occhi. E quando ho veduto questo libro aperto sulla bancarella, con la signora che ha lo sguardo triste quasi quanto il vostro quando vi crucciavate, scusatemi se mi sono preso questa libertà, miss. Ho pensato che potevo permettermi di comperarvelo, e poi ho comperato i libri coi gentiluomini per fare l'assortimento, e poi. E qui Bob sollevò il piccolo involto di libri legati con lo spago. Ho pensato che voi ne avreste graditi alcuni un po' più stampati, oltre quelli delle figure, e ho preso questi, tanto per dire, sono tutti stampati, e mi è parso che non si sarebbero accompagnati male con quegli altri libri più belli, e spero che non mi direte di no, che non volete tenerli come ha fatto Mr. Tom con le mie sovrane. Oh no, certamente, Bob, disse Maggie. Vi sono tanto, tanto grata d'aver pensato a me e di essere così buono con me, con Tom. Non credo che nessuno abbia mai fatto per me qualcosa di così gentile. Non ne ho molti di amici a cui importi qualcosa di me. Prendetevi un cane, miss. Sono migliori amici che qualunque cristiano, disse Bob, tornando a mettere giù il fagotto, che aveva ripreso con l'intenzione di partirsene alla svelta, perché provava una notevole timidezza a parlare con una giovane signorina come Maggie, per quanto, come soleva dire di se stesso, la lingua gli prendesse la mano quando si metteva a parlare. Non posso regalarvi, Mumps, perché gli si spezzerebbe il cuore separarsi da me, ne è vero, Mumps? Che dici tu, canaglia? Mumps si limitò a un solo movimento affermativo della coda, rifiutando qualunque risposta più diffusa. Ma vi porterò un cucciolo, miss, che vi farà piacere. No, no, vi ringrazio, Bob. Abbiamo già un cane da cortile e io non posso tenermene uno per me. Peccato. Altrimenti ci sarebbe un cucciolo, se a voi non importa niente che non sia ancora allevato. Sua madre lavora al teatro di Pulcinella. Una cagna di un'intelligenza fuori del comune. Mette più senso lei nei suoi latrati che metà degli uomini in tutti i loro discorsi dal mattino alla sera. C'è un tipo che porta le marmitte, il più povero e basso dei mestieri di strada, che dice: "Per Diana, Toby, non è che una bastardona, non c'è niente di speciale in lei." Ma gli dico io: "Diamine, e cosa sei tu se non un bastardone? C'era poco da tirar fuori da tuo padre e da tua madre, basta guardarti." Non è che non piacciono anche a me le bestie di razza, ma non posso soffrire di vedere un bastardo che mostra i denti a un altro. Vi auguro la buona sera, miss, soggiunse Bob, riprendendo d'improvviso il suo fagotto con la sensazione che la lingua stava tenendo un contegno indisciplinato. Non vorreste venire qualche volta alla sera, Bob, a vedere mio fratello? Disse Maggie. Oh, sì, miss, grazie. Un'altra volta. Gli farete i miei doveri, per piacere. È un bel ragazzo ben piantato, Mr. Tom. A lui gli si sono allungate le gambe, a me no. Il fagotto era di nuovo a terra, perché l'uncino del bastone aveva qualche cosa che non andava. Non direte mica che Mumps è un bastardo, no? Disse Maggie, indovinando che l'interesse da lei dimostrato a Mumps avrebbe fatto piacere al padrone. Oh no, miss, tutt'altro, disse Bob con un sorriso di simpatia. Mumps è il più bell'incrocio che si possa vedere lungo la Floss, e io posso dire d'averla percorsa tutta in barca un sacco di volte. Perbacco, la gente a modo si ferma a guardarlo. Ma non crediate mica che Mumps si lasci cogliere a guardarla, quella gente a modo. Lui pensa ai fatti suoi, lui. L'espressione del muso di Mumps, che pareva appena tollerare la superflua esistenza degli oggetti in generale, era un'energica conferma di questo alto elogio. Ha un'aria terribilmente burbera, disse Maggie. Chissà se si lascerà accarezzare da me. Ma certamente che si lascerà e vi ringrazierà ancora. Mumps conosce la sua gente. Conosce. Non è un cane che si faccia pigliare col pan di zenzero. Fiuta molto più volentieri un ladro che il pan di zenzero fiuta. Dio buono, io gli parlo per delle ore intere quando vado in giro per i posti solitari e quando ho fatto qualche piccolo tiro, glielo racconto sempre a lui. Io non ho segreti che Mumps non li conosca. Lui sa la storia del mio grosso pollice. Lui. Il vostro grosso pollice? Che cos'è, Bob? Disse Maggie. Ecco cos'è, Miss, rispose prontamente Bob, mostrando un campione singolarmente ampio di quell'elemento differenziale tra l'uomo e la scimmia. Questo viene fuori quando si misura la flanella, vedete? Io ho tratto la flanella perché pesa poco nel fagotto e poi è una merce cara, vedete? Dove il pollice grosso fa bene la sua parte. Metto giù il pollice all'estremità della yarda e poi taglio dalla parte di qua. E le vecchie donne non se ne accorgono. Ma Bob, disse Maggie con aria seria, questa è una truffa. Non mi piace di sentirvi dire queste cose. Oh, davvero, miss? Disse Bob con rammarico. Allora mi dispiace di avervelo detto, ma io ho tanto l'abitudine di parlare con Mumps e lui non se la prende affatto per una piccola truffa quando si tratta di quelle donne spilorce che non finiscono mai di tirare sul prezzo e vorrebbero avere la flanella per niente e non si domandano neppure come faccio io a tirarci fuori il mio pane. Chi non voleva truffare me, io non l'ho mai truffato, miss. Dio buono, sono un onesto ragazzo, sono. Ma un poco devo pure divertirmi, e adesso che non vado più a caccia coi furetti, non mi restano per sbizzarrirmi altro che le donne spilorce. Vi auguro la buonasera, miss. Addio, Bob. Tante grazie d'avermi portato i libri. E tornate un'altra volta per vedere Tom. Sì, miss, disse Bob allontanandosi di qualche passo. Poi, volgendosi a mezzo, soggiunse: La smetterò con quel trucco del pollice grosso, se questo vi fa pensar male di me, miss. Ma sarà un vero peccato, sarà. Non riuscirò più a trovare un trucco altrettanto bello. E poi a che serve di avere un pollice grosso? Tanto varrebbe che fosse più piccolino. Maggie, così assunta a Madonna ispiratrice di Bob, rise suo malgrado, per cui gli occhi azzurri del suo adoratore ebbero anch'essi un ammiccamento. E sotto questi favorevoli auspici, egli si toccò il cappello e se ne andò. I giorni della cavalleria non sono passati, nonostante il solenne lamento funebre di Burke. Vivono essi ancora in quella adorazione che più di un giovane e più di un uomo tributa ad una donna di cui non ha mai sognato toccare neppure il dito mignolo e neppure il lembo della veste. Bob, col suo fagotto a spalle, aveva per quella fanciulla dagli occhi neri un'adorazione riverente, quale un cavaliere in armi che ne invocasse ad alta voce il nome mentre spronava alla battaglia. Quel raggio di gaiezza presto scomparve dal volto di Maggie e forse non fece che rendere più greve, per contrasto, il ritorno della tristezza, troppo scorata perché le rimanesse voglia di rispondere alle domande intorno a quel dono di libri fattole da Bob. Se li portò in camera sua, deponendoli per terra e sedendosi sul suo unico sgabello, senza nemmeno curarsi di guardarli per il momento. Appoggiò la guancia al telaio della finestra e pensò che quel Bob dal cuore leggero aveva una sorte molto più felice della sua. Il senso della solitudine e della completa privazione di ogni gioia si era approfondito in Maggie col brillar della crescente primavera. Tutti gli angoli prediletti intorno casa, che parevano aver avuto la loro parte insieme con i genitori nell'educarla e nel fasciarla di tenerezza, erano ormai associati alla tristezza domestica, né più rendevano sorriso sotto la luce del sole. Tutti gli affetti, tutte le gioie che la povera fanciulla aveva provati, erano per lei come pungenti nevralgie. Non più musica per lei, né pianoforte, né voci concertate, né deliziosi strumenti a corda, che con il loro appassionato gemito di spiriti prigionieri trasmettessero strane vibrazioni ai suoi precordi. E di tutta la sua vita di collegio non le rimaneva che la piccola raccolta di libri scolastici che la sfogliava con la disgustosa sensazione di conoscerli già tutti, privi di ogni conforto. Già quando era in collegio aveva spesso desiderato dei libri che dicessero di più. Tutte le cose che ne imparava le parevano gli estremi di lunghi fili immediatamente recisi. E adesso, senza l'indiretta attrattiva dell'emulazione scolastica, il Telemaco era tutta zavorra, non meno che le ardue ed asciutte questioni di dottrina cristiana. Non c'era più sapore in essi, non più splendore. A volte Maggie pensava che delle fantasie capaci di assorbirla per intero le avrebbero forse dato qualche soddisfazione. Avesse avuto tutti i romanzi di Scott e tutti i poemi di Byron, chissà se non avrebbe trovato tanta gioia da diventare insensibile alla sua attuale vita quotidiana. E tuttavia, non questo ella desiderava. Mondi di sogno poteva crearsene da sola, ma nessun mondo di sogno l'avrebbe ora saziata. Desiderava qualche spiegazione di questa dura vita reale. Il babbo dal volto infelice, che sedeva al desco malinconico, la mamma puerile e stranita, i piccoli meschini lavori che riempivano le ore, o l'ancor più opprimente vuotezza dei gravi riposi senza gioia. Il bisogno di qualche affetto tenero ed espansivo, la crudele sensazione che Tom non si curava di ciò che ella pensava o sentiva e che ormai non sarebbero stati più l'uno per l'altra dei compagni di giochi, la privazione di tutte le cose gradite, toccata a lei più che ad altri. Desiderava una chiave che la abilitasse a comprendere e comprendendo a reggere il peso accasciante che era caduto sul suo giovane cuore. Se le avessero insegnato la vera scienza e saggezza, quale conobbero gli uomini grandi, le pareva che avrebbe posseduto i segreti della vita, avesse soltanto avuto dei libri dove potesse apprendere da sola quello che gli uomini saggi sapevano. I santi e i martiri non avevano mai interessato Maggie quanto i savi e i poeti. Poco sapeva dei santi e dei martiri e come risultato generale dei suoi studi aveva concluso che essi erano una temporanea misura contro il propagarsi del cattolicismo ed erano tutti morti a Smithfield. In una di queste meditazioni le venne in mente che si era dimenticata dei libri scolastici di Tom rispediti a casa nella valigia, ma li trovò per la maggior parte indicibilmente accartocciati sotto pochi vecchi libri che erano stati sfogliati con cura. Il dizionario latino e la grammatica, un delectus, e l'esasperante Euclide. Tuttavia il latino, Euclide e la logica potevano già costituire un notevole passo avanti nella saggezza maschile, in quella scienza che rende gli uomini contenti e perfino felici di vivere. Non già che questo desiderio di saggezza concreta fosse del tutto disinteressato, di tanto in tanto sorgeva sul deserto del futuro un certo miraggio nel quale le pareva di vedersi onorata per le sue sorprendenti cognizioni, e così la povera fanciulla, con la fame della sua anima e con le sue lusingatrici illusioni, cominciò a mordere al frutto dalla dura scorza che pende dall'albero del sapere, riempiendo le proprie ore di libertà col latino, la geometria e le forme del sillogismo, e sentendo ogni tanto un lampo di trionfo perché la sua intelligenza era completamente all'altezza di quegli studi tipicamente maschili. Per una settimana o due tirò avanti con sufficiente risolutezza, quantunque con un certo passeggero stringimento di cuore, come se, partita sola verso la terra promessa, trovasse un viaggio sitibondo, incerto, senza strada. Nell'austerità della prima decisione si portava Aldrich per i campi e poi i suoi occhi si alzavano dal libro verso il cielo dove la lodola brillava nella luce, verso i canneti e i cespugli presso il fiume, dove la gallinella acquatica starnazzava nella sua inquieta, pavida fuga. Ed ecco, la colpiva la sensazione che il rapporto tra Aldrich e questo mondo vivente fosse estremamente remoto dalla sua comprensione. Lo scoraggiamento si approfondiva col passare dei giorni e il cuore frettoloso sempre più la vinceva sullo spirito paziente. Talora, quando si sedeva con il suo libro accanto alla finestra, gli occhi le si fissavano vuoti nel sole che brillava di fuori. Allora le si riempivano di lacrime e qualche volta, se la mamma non era nella stanza, gli studi andavano a finire in singhiozzi. Si ribellava contro la propria sorte, si accasciava sotto il peso della solitudine. Ed era presa da accessi perfino di collera e di odio contro il padre e la madre, che erano così diversi da come ella li avrebbe voluti, contro Tom, che la reprimeva e opponeva ad ogni suo pensiero o sentimento qualche differenza contrariante, accessi che sommergevano i suoi affetti e la sua coscienza come un torrente di lava, e l'atterrivano. dandole la sensazione che non era lontana dal diventare un demonio. Per il suo cervello si eccitava in selvaggi romanzi di una fuga da casa, in cerca di qualcosa di meno meschino e triste. Sarebbe andata da qualche grand'uomo, Walter Scott, per esempio, a dirgli com'era infelice, a mostrargli com'era istruita, ed egli avrebbe fatto certamente qualcosa per lei. Ma nel bel mezzo di queste fantasie succedeva, per esempio, che il babbo rientrasse nella stanza per passare la serata e, sorpreso che ella non si fosse ancora accorta di lui, le dicesse in tono lamentoso: «Ebbene, dovrò andare io a cercare le mie pantofole?» Quella voce feriva Maggie come una spada. C'era un altro dolore vicino al suo ed ella aveva pensato di volgergli le spalle e dimenticarlo. Quel pomeriggio la vista del volto gaio e lentiginoso di Bob aveva dato una nuova direzione al suo scontento. Pensava che le difficoltà della sua vita dipendevano in parte dal fatto che ella soggiaceva al peso di desideri più vasti di quelli che gli altri parevano sentire, dal fatto che ella doveva patire queste grandi aspirazioni senza speranza verso alcunché di ignoto, che pure doveva essere la cosa più grande e più bella di questo mondo. Avrebbe voluto essere come Bob, con la sua ignoranza facilmente soddisfatta, o come Tom, che aveva qualche cosa da fare, su cui poteva fissare il suo spirito con fermo proposito, prescindendo da tutto il resto. Povera figliola, lì, col capo appoggiato al telaio della finestra, con le mani giunte, strette, strette, picchiando i piedi sul pavimento, era sola nella sua pena, come se nel mondo civilizzato di allora fosse stata l'unica fanciulla uscita di collegio con l'animo impreparato alle lotte inevitabili, senza altra parte nel retaggio di quei faticati tesori di pensiero che la pena laboriosa di intere generazioni ha legati al genere umano, se non qualche brano e frammento di debole letteratura e di falsa storia, fornita di parecchie futili informazioni sui sassoni e su altri re di dubbio esempio, ma purtroppo priva completamente di ogni conoscenza di quelle irreversibili leggi intime ed esterne che, governando il costume, riescono alla moralità e, sviluppando il sentimento di sottomissione e di dipendenza, riescono alla religione. Così, solitaria nella sua pena, come se a lei sola tra tutte le fanciulle fosse mancata la guida e la vigilanza di spiriti maturi, e pur non dimentichi del proprio tempo giovanile, quando pungenti erano i bisogni e violenti gli impulsi. Finalmente gli occhi di Maggie si abbassarono sui libri che erano posati sul davanzale della finestra, ed ella quasi si scordò del suo fantasticare, volgendo distratta le pagine della galleria di ritratti, che poi subito mise da parte per esaminare la piccola pila di libri legati con lo spago: Bellezze dello Spectator, Rasselas, Economia della vita umana, Lettere di Gregorio. Conosceva che sorta di cose si contenesse in tutti questi libri. L'Annata Cristiana, questo le parve un libro di inni e tornò a posarlo. Ma Tommaso da Kempis, questo nome le era già occorso nelle sue letture, ed ella provò la soddisfazione, a tutti nota, di trovare qualche idea da attaccare ad un nome che s'aggiri solitario per la memoria. Prese il piccolo, vecchio, goffo libro con alquanta curiosità. Gli angoli delle pagine erano piegati a orecchie in parecchi punti, e una mano, ora per sempre in riposo, aveva fatto accanto a certi passi dei grossi segni a penna, ormai da lungo tempo ingialliti per gli anni. Maggie voltò le pagine, l'una dopo l'altra, e lesse là, dove quella mano ormai in riposo aveva fatto i suoi segni: «Sappi che l'amore di te stesso ti fa più male che qualunque cosa al mondo. Se tu cerchi questo o quello, e se vuoi essere qua e là per godere il tuo desiderio e il tuo piacere, non sarai mai tranquillo né libero da cure, perché in ogni cosa ci sarà qualche manchevolezza e in ogni luogo qualche cosa ti contrarierà. Di sotto e di sopra, da qualunque parte ti volga, dovunque troverai la croce. E dappertutto ti sarà mestiere di portar pazienza, se vuoi avere la pace interna e gioire di un'eterna corona. Se vuoi salire su questa cima, te duopo di metterti all'opera con coraggio e portarla scure alla radice, perché devi sradicare e distruggere questo segreto e disordinato amore di te stesso e di tutti i beni particolari e temporali. Da questo peccato di smodato amore dell'uomo verso se stesso, leggeva ancora Maggie, dipende quasi tutto quello che bisogna completamente superare, il qual male, una volta superato e soggiogato, subito ne nascerà grande pace e tranquillità. È poco ciò che tu soffri a paragone di coloro che tanto hanno sofferto, che furono fieramente così tentati, così gravemente afflitti, per tanti modi messi alla prova e travagliati. Devi quindi richiamare al tuo spirito le più gravi sofferenze degli altri, a ciò che tu possa più facilmente sopportare le tue piccole avversità. E se non ti paiono piccole per te, bada che la tua impazienza non ne sia la cagione. E ancora, benedette siano quelle orecchie che ricevono il murmure della voce divina e non ascoltano i mormorii di questo mondo. Benedette quelle orecchie che non fanno attenzione alla voce che risuona dall'esterno, bensì alla verità che dall'interno ci ammaestra. Uno strano brivido di venerazione attraversava Maggie durante questa lettura, come se ella fosse stata destata nella notte dalla melodia di una musica solenne che le narrasse di creature le cui anime erano state attive mentre la sua giaceva nel torpore. Ella proseguiva dall'uno all'altro di quei segni ingialliti, donde una mano defunta pareva farle cenno, e quasi non aveva coscienza di stare leggendo, e piuttosto le pareva di ascoltare una voce bassa che dicesse: «Perché ti guardi d'attorno quando non è questo il luogo del tuo riposo?» Maggie emise un lungo sospiro e cacciò indietro i pesanti capelli come per guardare con più chiarezza una subitanea visione. Qui, dunque, c'era un segreto di vita che l'avrebbe resa capace di rinunciare a tutti gli altri segreti. Qui c'era un'altezza sublime da raggiungere senza il soccorso delle cose esteriori. Qui c'era profonda conoscenza e forza e conquista da conseguirsi con mezzi interiori dell'anima sua, dove un maestro supremo era in attesa di venire ascoltato. Balenò in lei, come soluzione di un problema afferrata d'improvviso, che tutte le angustie della sua giovane vita le erano venute dal fissare il cuore sui suoi piaceri, come se questi fossero una necessità centrale dell'universo. Per la prima volta vedeva la possibilità di mutare l'angolo sotto cui guardava la soddisfazione dei propri desideri, uscendo fuori di se stessa e considerando la propria vita come parte insignificante di un tutto divinamente guidato. Lesse e rilesse il vecchio libro, divorando ardentemente i dialoghi con l'invisibile maestro, modello di dolore, sorgente di ogni forza. E vi tornò dopo di essere stata chiamata fuori e lesse finché il sole si nascose dietro i salici. Con tutto l'ardore di una immaginazione che non poteva mai riposare nel presente, rimase lì, seduta, nel crepuscolo sempre più profondo, formando dei piani di contrizione e di devozione perfetta. E nell'ardore della scoperta, la rinunzia le pareva la via d'accesso a quella soddisfazione che l'aveva così lungamente desiderata e invano. Non aveva compresa, e come avrebbe potuto senza vivere più a lungo, l'intima verità delle effusioni dell'antico monaco, che la rinuncia rimane dolore, quantunque dolore volontariamente sostenuto. Maggie era ancora alla ricerca affannosa della felicità e andava in estasi perché aveva trovato una chiave per quella. Nulla sapeva di dottrine e di sistemi di misticismo o di quietismo, ma questa voce proveniente dal lontano Medioevo era la diretta comunicazione della fede e della esperienza di un'anima umana e giungeva a Maggie come un indubitabile messaggio. Trasportata entro le lunghe, lontane vibrazioni di una simile voce, Maggie, col suo viso di fanciulla e le sue pene segrete, trovò un coraggio e una speranza che la sorressero negli anni della solitudine e poté crearsi da sola una sua fede senza l'aiuto di autorità costituite né di guide brevettate, giacché a portata di mano non ne aveva e il suo bisogno era urgente.